microfono non ha nessun'altra regolazione, non è come l'M300, come l'F22, c'ha solo lo slider e bu. Perché tu devi mettere un microfono come questo, vedi come va questo qua? Questo qua l'ho combinato io. Bisogna trovare la cap sulla giusta al momento giusto. E anche questo, magari se li cambi la capsula funziona meglio, non lo so, però il livello di amplificazione non se ne può regolare. Ma non hai visto quello che ha regalato Massimiliano a Gianni Rubrofetta? Quello lì è stato modificato sicuramente e va forte, si sente un bel forte. Ma tu l'hai portato nel Rubrofetta, sai come lo sentivo l'altro giorno quando stavate parlando tu, Luca e lui, avantiri. Ma forte, cazzo, Luca me lo faceva vibrare addirittura, anche il Rubrofetta. Tu hai anche la sfida e cosa gli ha fatto. Magari è una cazzata, c'è da cambiare una capsula e poteva uscire di lusso. Va bene, va bene. Questo qua me l'aveva regalato Marco a me. Qualcosa della batteria, quel cappuccetto, ho visto, ne usciva, quando te andava a tirare la batteria ne usciva fuori il filo qualcosa. Ti ho cambiato quel cavetto lì, ho messo cavo restringente, fatto bene, non si vede nulla. E poi gli ho fatto il lavoretto io, te l'ho pompato, va. Incrocio. Come ho fatto quello degli uccelli, l'incrocio, adesso sono usciti dei bisogni, ma belli. Ho fatto un incrocio tra un coso, aiutami Natali, quei pezzati, come cavolo si chiama, non me lo ricordo, timbrados, un timbrados e un agata. Anzi, sono usciti certi uccelli, canterini, ma già non tu canta. Ascolta, ma a proposito di quello, tu pensi che incrociando l'uccello mio con quello di Natalino possa uscire un pappagallo? Memo! Questa bella, eh! Anche perché uno mi sa che è morto. Cazzo, ammazza, di me varie. Cazzo, Natali, sentito, non possiamo incrociare gli uccelli noi. Raga, non canta. Il mio è vivo in veget. Natali, non comincia a piccarti, Lascia perdere questi incroci. Se no Gianni, come fa a fare incroci, no? Che esce in tutti i bisogni guasci. Se riesci a toccare, se riesci tu che canta un bel Claudio, quello che sei detto tu cantando, quello lì, ho fatto un incrocio tra un'agata e un pezzato. Ah, è uscito di uso. No, già li ho visti, sono veramente molto molto belli. Ma sono belli. Sono belli, una bella gabbia di uccelli, molto bella. Vabbè, no, io no, non aggiungo altro, mio fratello è appassionato di queste cose, io no, già basta il cane e so pure così, se no mi impegna troppo ed è un casino. Avanti, dove, squalo, non sei uscito, va ancora un giorno lui, stamani, leggendo il giornale. No, stamattina sono presto, sono andato da Carrefour, poi sono rientrato e sono andato a farmi la revisione alla macchina. Ho fatto la revisione alla macchina, poi sono uscito a centro casa, come ti si chiama, risparmio casa, e poi da Bricome, e poi sono rientrato. Ti hanno levato i lini? No, io alle 8 sono andato in ufficio, se c'erano fax, se c'era roba da inviare, ho visto non c'era niente, ho fatto un po' di telefonate, sono sentito con mio cognato che è Ulvia, e niente, e mi sono rientrato a casa, la verità. Adesso è entrato a casa, perché intanto non c'è niente da fare, stare lì, non me ne ha fatti nulla. KK, avanti tata lì. L'ho richiuso, non ve ne è nessun trimmer, nulla, non c'è. Ma la capsula come originale, perché quello che c'ha il coso Gianni Rubrofetta esce un bel bene, quello che ha detto Massimiliano, sono uguali. Ma lo sai qual è Natalì? Che lui c'ha il Mickey Gain, è un altro accontentati di quello lì, sta uscendo benissimo, meglio del microfono normale, vai tranquillo. Chi già me lo posso immaginare, questo non ha le macchine, va nuda, no? Manco la LC, non si può fare nulla perché non abbiamo nessuno schema, nulla. Però ti ripeto, stai uscendo molto meglio dal microfono normale, quindi cosa di nafuti, lascialo stare così, tranquillo, senza problemi. E così la giuda capita. E si conferma, gappa. Claudio, guarda lo dice, c'è più forte il microfono. È fortissimo la tua già, va bene, non a toccare, va bene. Sì, perché questo caso di rotte si muovono. Chiara, se voglio vi posso dare anche il checco, c'è anche il checco, però non glielo do perché dice che va meglio così. Alla grande va meglio così, non meglio, di più. No. E poi se gli do il checco mi fa fiscare l'apparato. Ulla. Se sta uscita, sta già andando a è come sto uscendo e quando ci sto arrivando, ma sto usando le più 5, no, questo è le più 4, anzi aspetta che provo l'MC60, guarda un po', ora, adesso guarda un po' il segnale, buongiorno! Ah, il pappagallo è entrato, forse, buongiorno a lì. Buongiorno, e noi siamo qua anche per fare prove, non è che possiamo sempre parlare di mortadella, di prosciutto. Anche quello fa parte della radio, caro Eugenio, e tu fai il disegno di pescherecci, cosa vuoi ti fare? Io sto facendo le mie prove. Oh, le prove allora, io sto andando con il DAC, mi pare che te l'avevo già mandata la foto. Il baracchino quello Mastro Lunti con l'MB più 5. Infatti sono una ventina forse. Esci con 5 e fa, cosa una ventina? È quello che danno la radio, cosa metti di chia? Quelli dammi. Quelli da. Guarda, ora, non c'è ventina, cazzo come tu G, con i scalaventi. Allora, sono 8. 10 watt modulati, 8 watt di portante, quello che dà il baracchino. Gemma, mi hanno detto che stai vendendo il Superstar. Come? Mi hanno detto che stai vendendo il Superstar. Mettiamoci d'accordo, non è un problema. Mettiamoci d'accordo, tu non dai mai così ti ammazzo. No, mettiamoci d'accordo, è come stia uscendo da NV. La modulazione, la senti, è questo qua, guarda, c'è ancora la pellicola, non l'ho mai levata. Nel guscio è tutta volta la pellicola originale, come quando ci arriva al deluzio, non l'ho mai staccato. Il baracchino mai toccato, è perfetto. Fai un prezzo. Pagato 186 euro con lo scontrino allegato. Ragazzi, un attimino che mi sto allontanando. Ehi, Atto. Ma io, se devo dare 150 te lo compra già. Mi sento bene, non te lo voglio prendere. 150 già, fagli l'offerta, portaglielo via io. Ma non glielo prendo perché lo fa uscire bene, dai. È l'unica parica che l'ho sentito veramente uscendo bene. Dai, fammi l'offerta, non ho problema. Tanto io ho anche il Galaxy. Dai, poi per 150 euro mi dai il K-Food. Claudio, dai. No, tagliamo in due, tenendo la metà. Vabbè, poi vendo anche il Galaxy, mi dai l'altra metà. 150, dai, ma lo porti stasera. No, già rimane qua, Sto scherzando. Sì, lo so. E vabbè, là. No problem, già ne ho qua di apparati, che sarebbe in più come apparato, dai. A te ti servirebbe quello che c'ho io, quello modificato per il furgone, fatti intendi. No, non interessa. Se riesco a risolvere il problema del camper che mette il motore dentro, non ci metto niente a comprare un baracchetto da internet, capito? No, questo rimane qua. Perfetto, nuovo. Vai da Mario, dall'elettrauto, e gli dici il problema che ti fa, ti mette le candele e ti mette dei cappuccetti che si mettono per evitare i rumori, e te lo togli quel rumore. Hanno dei sistemi per filtrare i rumori. Schermatura vuol dire che gli manca. Sì, riscarmano le candele, riscarmano la bobina e basta. Ma me lo fa anche, deve essere apparato, perché con questo quando ci avevo nel furgone non me lo facevo. Deve essere apparato, perché me lo fa anche il furgone, capito? Ah, se questo è l'apparato è un'altra cosa. Dai, apriamo la vendita, scambio, vendo, mosca ci ha vinto, dai. Ma io cosa ci avete da vendere? Io ho l'omologato, ma l'omologato, quello modificato, 3,50 lo sto dando, ma ci ho pagato più di 400, non ti dico altro. Io sto vendendo un accordatore MFG decametrico, chi lo vuole? Che mi compro un apparecchio omologato come si deve. Claudio, ti serve l'FG? No, io ho già il 30 lì, non ce l'ho fatto 230, io ho già... A parte il fatto non ci ho posto in niente, c'ho l'AT230 che mi fa accordatore, rosmetro, wattmetro, commutatore d'antenna, carica di tizio, quasi tutto, è collegato tutto lì, io da lì faccio tutto. Allora, certo la tua vendita, la tua lista. No, gliel'avrei preso, e non c'è un problema, figurati, gliel'avrei preso, ma non mi serve a me. Sto cercando qualcuno a venderglielo, ma anche tu vedi ho un po' di naviso. E cosa, dillo a me. Anche quell'antenna da un metro e mezzo, quella famosa, quella che non ce n'era per nessuno, Cla, per la macchina, cava cava. E anche quella che abbiamo usato a scarapicciare, te la metto. Qui sono venuti a banirci una, te la metto. Come sono arrivato? Adesso piano piano mi faccio i soldi e poi me lo compro. E poi vendo questo. Ehi, se non ti muovi mi compro il 4,40 io. Non c'è problema. Prendilo. Fa scherzare. Io non ne voglio più di quelli, io ho apparati così, CB e basta. Neanche io lo voglio più di quegli apparecchi. Ma mi compare giudizio e mi andiamo di campagna. E lascia col cetasso. E allora, divorzio, cazzo. E mi compro il 9,40, che mi è sempre piaciuto come apparato. Ma Natalia, ma perché oggi ti ascolto più basso in radio di ieri? Ieri ascoltavo molto, ma molto meglio. Avevo un altro apparecchio, ti rispondo io. Ah, ok. Avevo un altro apparecchio, era un monolattore stesso, però era un altro. Adesso faccio 4 mulini a Claudio, da 150 passa a 100, da 100 passa a 70, per 50 euro io tiro un fuglio, va? Va bene, non c'è problema. Claudio, meglio ti lo regalo, vado alle 50 euro. Il microfono, io lo do. Anche, almeno 100 il microfono, le MC60 a 50 euro lo dai. No, il microfono normale. Ah, cavolo. Ma il MC60 l'avevo pagato io, 170 euro, quello che avevo fatto è nuovo. 170 euro, me lo ricordo bene. Ah, ma come un'altra cosa, come si scioglie subito, Claudio? Le faccio gli occhi dolci. Ma io te l'abbiamo mandato anche da Paesi. Ah, ma ti sei dato ai maschietti, a fare gli occhi dolci ai maschietti, bubu. Amore, bubu, non farmi di più. Perché? Sono rientrato comunque. Oi, oi. Pallina. Vito, ti ho mandato la radio che sto usando. Guarda quanto è piccola. Un baracchino è me. Un baracchino sono 40, più 40, più 40. SSB è tutto. Guardala bene. Questa è quella che sto usando. È il baracchino più grande al mondo. Non ce ne sono altri baracchini così grandi. Ma come ce l'hai? No, rotore, ce l'ho, rotore qua. E poi l'altra, ti ho mandato la mia sala radio, vista la piccolina, no? Piccolina, eh. Ci me la chiami minorita. Il tavolo è quanto è quello che ho io davanti. È fatto il soprappiano, e già va bene, sì, e a buglia. No, questa è tutta roba che ha fatto Giulio, è tutta roba fatta alla falegnameria. Non è una scrivania. Quella si abbassa, sono i piedi, si piegano i piedi e se si tolgono le radio si abbassa, arriva al muro, capito? Il soppalco anche ha fatto, tutto Giulio l'ha fatto, tutto legno massello, lui cammina sopra, non ve ne è problema. Scrivanie, ne ho avuto tante, si imbarcava, ma c'ho troppo peso io, capito? Ho troppo peso, e quindi Giulio ha fatto questa base che è la fine del mondo. Hai visto quante minori su Baracchino, eh? Tanti minori Baracchino va a fare luce in mano. Visto dai, molti vuoi più per alleggerirti, mi dai 4,40 a me? Sono tutte le radio, le altre radio che pesa? Ah, ma a me le altre radio non interessa, io ti alleggerisco di un pezzettino, un etto, va, ti alleggerisco. Ah, così? Allora già va bene, va. Uia, chi se la mi dai tu? Chi se la mi dai? L'altra mi dai dentro l'armadio, perché c'era un'altra base uguale a quella che faceva L, sempre fatta da Giulio. E l'ho tolta perché non c'era più posto manco di muovermi. E allora ho lasciato tutta la parte amatoriale e basta. Se no è un casino. Ragazzi, ci sentiamo qua, che provo a tirarmi tutte le tende giù, cioè fuori interrato, che adesso si mangia fuori. C'è una bellissima giornata. Va bene, pensa al ciclà. Posso arrivare al 51,60. Ciao. Vabbè, ci penso, dai. Duo di 4,40 su CB Radio Amici. Io non aggiungo nulla, già. Io ho il 430, il 440 e il 140. Se trovo mi prendo anche un 680, così ce l'ho di nuovo tutte e quattro. Ho tutte le linee complete e non tolgo nulla a nessuno. Sto bene così, non mi serve nulla. Intanto poi ho sempre venduto e poi me l'ho ricomprato, quindi siccome la mia va bene, è nuova, funziona bene, me la tengo e boh, capito? Non devo più nulla. Vieni che ti do il mio, vieni. Se 80? Perché no? Io ce l'avevo tutte e quattro, fra, mi si è attaccato a Ruggeri Massimiliano, mi sembra l'ha tenuta tre mesi e si è fatta di là e si è preso un'altra radio modificata. Infatti mi sono incazzato poco. Ecco, rivia, e invece ce l'ha venduta, capito? Se no non gliel'ho fregata, per bene se non gliel'ho fregata, perché andava veramente molto bene. Io quella è stata una delle mie prime radio che ho comprato nuova quando ci hanno segnato i 50 mega, perché le radio con i 50 mega, le HF con i 50 mega, avevano giù 3. Però prima costavano una barca di soldi. E allora avevo trovato l'opzione, ho detto ma sì, spendo poco e 50 metri ce li ho lo stesso. E avevo comprato quella, solo per i 50 metri. E poi, vabbè, sono salito più in alto e quella me la sono tenuta. La giornata Massimiliano si è venduta, che se non ce l'avrei avuto tutte e quattro io le radio. Vabbè. È un genio che. Con quei soldi che ti voleva dare neanche i pomeri Cesco. No, però posso vedere, giusto per farvi da vedere 50 euro mi conveni, però no. Se no lo mando da te, pa 60, va. Uno stesso. Eugenio non ha idea di cosa costano queste radio, non ne ha idea lui. Ho di canto raggio bagata io, il primo 430 preso in Viale Mameli da Mario Nottali, 2 milioni e 600 mila lire. Ecco, guarda, aspetta, ho pagato a 400 io. E non la loggo, un centesimo dendira, non la loggo dendira, ma dendira non la loggo, un centesimo e manco. Già, l'abbiamo già fatta, no? C'era quel radiomatore che la voleva e non gliel'hai data. Se quello è il prezzo, quello è, non c'è altro da fare, perché tu pensi che il mio 4,40 lo do 300 euro. 400 euro, 4,50 con l'amici 60, proprio per fare un favore a un amico, se è amico, se no 4,80. Perché la mia c'ha tutti i filtri, anche quelli della M, la scheda fonema è tutta completa, ma la son fatta per me, è completissima, e lo sai? Quella canta pure, capite? Solo quella scheda fonema costa 120 euro, quindi più c'ha tutti i filtri, AM, SSB, FM, duttu, completa di duttu, capito? Quindi non la do perché intanto non me la pagano e io con quelli soldi non trovo niente, capito? È quella che avevo io, Te lo ricordi che ti dicevo, adesso ti faccio sentire la mia segretaria. Ti ricordi Natale quella scheda quanto costava? 120 euro. E io quella radio l'ho comprata da uno praticamente che mo non c'è più, e quindi me la tengo, anche perché ha un valore affettivo. Il 430 invece l'ho comprato a Walter 7-8 anni fa. Quindi c'è un soffio, non lo c'è. Ora. Uscendo, sì. Pronto? Sì, stai uscendo. Cazzo, c'è una mano pulita, gente su, pum. Non, agli tu sei copiato. Si hanno battuto i succhi, non per caridare. Agli tu, ma fate un guardato subito, guardate, mi sto dicendo, già sto uscendo. Sì, sto uscendo, che bello. Kappa, no, l'ho passato, mi 30 watt, l'ho portato a 30 watt. 30 watt. Così lo posso usare, no, non scalda niente, è tutto gappa di roggero. Gappa, e io c'ho, lo sai, vabbè, 40 adesso, è là. No, questo è il DAC, non è 440. Questo è il DAC, 30 watt, l'ho regolato, lo so stare così, non lo tocco, tanto. Da 30 a 60, 70 non c'è una nuda, lo lascio stare a 30 watt. Claudio! Questo più andende, più cade più aumenta, più cade più aumenta. Già lo so, dimmi Vittore. Ah, gli smitter che c'ha, cosa sono? Ogni cosa di canali, cosa fa? 40, 40 e 40. Sì, c'ha 40 canali normali, 40 ne ha sotto e 40 ne ha sopra. È nata così, una radio americana, ma hai visto gli strumenti? Tu immagina degli strumenti, sono cante degli inizi esterni. Quello che c'è a sinistra, il primo, quello è il rosmetro, ha la stessa misura del rosmetro della ZG, preciso e identico, sono tutti uguali. C'è il rosmetro, quello appresso è il wattimetro, che praticamente ti misura la corrente delle valvole in uscita, l'assorbimento e la potenza di quanto stai uscendo. Poi c'è il modulometro e poi lo smitter, ma lo smitter hai tu in mano, a cinghie. Aspetta, ha peso un bel su Bisa. Pesa 18 kg e mezzo, to. 18 kg e mezzo, quasi 20 kg pesa quella radio. Aspetta, già un grido, è così. Vabbè, dai, ci sentiamo, che mi sto controllando la pasta, che mia moglie non c'è, che tocca controllarla io. Ok, dai, ci sentiamo stasera, se in caso. Ok, ciao a tutti. Statemi bene e buon pranzo a tutti. Ciao, Tore, ciao, buon pranzo anche a te. Dai, avanti, Claudio. Ciao, Tore, buon pranzo e fate sentire, già siamo qua. Vai, bravo. Ciao, Tore, buona carica, buon tutto, ci sentiamo. Avanti, Gianni. E vado avanti, vi saluto, che io stavo a mettere la pasta in forma, Gava. E ci sentiamo stasera, vai. Statevi tutti bene, vi saluto cordialmente, devo fare pesce e carne, ciao. Gava, vi saluto anch'io che me ne vado a pranzo, alle prossime. E avanti, ciao. Ciao già, ciao, buon pranzo, buon tutto, vai. E oggi pesce e carne già va bene. Ok, ci aggiorniamo stasera, vai. Che ne so, cazzo l'una è l'ora a mangiare organi, io vi saluto anch'io, che è già l'una, vado a mangiare, al cagnetto e poi mangeremo anche noi, là. Ci sentiamo stasera, se coincide, spero di sì, ciao Franco, Natalino, Gianni l'ho salutato, Tore e chiunque fosse in ascolto, ciao! Cappa dai, ciao Cla, buona carica, buon tutto, dai, ci sentiamo, ciao Natalino!